Angela Merkel ha messo veramente nel tempo, e anche ha fatto probabile l'ipotesi di un'esclusione della Grecia dalla zona euro. È questo che ha precipitato la crisi. Dunque, ormai i mercati dovrebbero avere un po' paura a andare contro, diciamo, l'Europa, a scommettere. Sì, oggi l'abbiamo visto, do anche un aggiornamento dai mercati, l'euro è 1,326, sta un po' recuperando, comunque le borse oggi sono andate bene, anche se non... Il problema dell'euro non è il problema, perché l'euro anche a 1,30 è forte, sì. È molto forte, non è un problema dell'euro, è un problema della politica economica in Europa, è il problema della crescita futuro in Europa, è dunque un problema molto serio, perché altrimenti, se non si risolve questo problema, questo significherebbe che l'Europa sarà l'ultima a uscire dalla crisi.